Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. .17:05 Focus Economia, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Il nostro sommario parte oggi inevitabilmente dalle tensioni geopolitiche in Estremo Oriente tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo abbiamo ascoltato anche nel GR pochi istanti fa. Tensioni che stanno preoccupando i mercati internazionali, che mostrano tutti un andamento negativo. Hanno iniziato questa mattina le piazze asiatiche con la flessione degli indici Nikkei e Hang Seng. A seguire, con lo stesso segno negativo, le contrattazioni europee, e la situazione non è cambiata molto con l'avvio degli scambi di Wall Street. Lo vedremo insieme tra poco. Come sempre accade in questi casi, gli operatori finanziari tendono a lasciare gli investimenti più volatili e rischiosi per rifugiarsi in quelli più tradizionali e sicuri. Mi vengono in mente materie prime e monete più forti. Parliamo allora di oro, di monete come yen giapponese, franco svizzero, e poi i titoli governativi con una preferenza per quelli di Stati Uniti e Germania. Andiamo allora con ordine e facciamo una breve anticipazione sui mercati. Partiamo da Wall Street. Il Dow Jones in questo momento meno 0,52%, lo Standard & Poor's 500 meno 0,80%, il Nasdaq meno 1,08%, il FTSE MIB, parliamo quindi di Milano, di Piazza Affari, in questo momento meno 0,77% a 21.681 punti. Come sempre, un rapido sguardo ai migliori, ai peggiori, ai titoli più scambiati. I migliori sono Campari, Tenaris, Jux, Atlantia, Deni. I peggiori: Unicredit, Banca Popolare, Emilia Romagna, UbiBanca, Ricordati e Unipol. I titoli più scambiati: Unicredit, Intesa San Paolo, Eni, Banco BPM, Fiat, Chrysler, Automobiles. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB. Poi gli altri listini europei: il DAX Francoforte, il DAX 30 meno 1,08%, Londra, FTSE 100 meno 1,43%, addirittura il CAC Parigi, il CAC 40 meno 0,70%. Il cambio euro-dollaro in questo momento 1,174795. Poi lo spread dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 160,10 punti, con una crescita di 1,59%. Sin qui dunque la finanza, ma parleremo tra breve anche di economia reale. Cercheremo di capire dove sta andando il PIL italiano in virtù dei dati della produzione industriale di ieri e anche dell'export di oggi. Quindi il tema delle privatizzazioni, sì o no? Il tema è quello dell'ATAC, in particolare l'azienda di trasporto pubblico romano. I radicali hanno raccolto le firme necessarie per un referendum consultivo. Cercheremo di capire che significato può avere questa mossa. Insomma, potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Focus Economia o sul sito di radio24.it. Passiamo allora alle notizie in breve. Notizie in breve che iniziamo con le materie prime. Dicevamo delle difficoltà, delle tensioni geopolitiche che vanno a premiare proprio tra le altre le materie prime, quindi oro più 1% a $1,285 l'oncia, il petrolio più 0,5% a $49,8 il barile. Sempre per gli energetici, boom delle esportazioni del gas russo in Europa nel periodo estivo, tradizionalmente stagione calma indubbiamente per il mercato del metano. Nei primi 8 giorni di agosto le forniture di oro blu da parte di Gazprom al gasdotto Opal in Germania, prolungamento del Nord Stream, sono cresciute addirittura del 30%, toccando i 140 milioni di metri cubi al giorno presso la stazione di Greifswald. Il Nord Stream è oggi al 90% della sua capacità, detto il numero uno di Gazprom. Alexei Miller, citato dalla TASS, la domanda di gas russo in Europa giunto è molto alta. Gazprom utilizza tutte le rotte disponibili, sia la Yamal Europa attraverso la Polonia, rimasta ai più alti livelli nonostante l'Opal, sia il corridoio ucraino, il cui traffico è persino cresciuto. Secondo Gazprom, il 2017 potrebbe chiudersi con 180 miliardi di gas esportati in Europa, ovvero uno in più del 2016, già anno record. La combinazione di inverno rigido ed estate torrida ha infatti spinto la richiesta di gas alle stelle. Gli Stati Uniti con l'occupazione, in questo caso parliamo delle richieste di sussidi alla disoccupazione. Negli Stati Uniti la scorsa settimana sono salite di 3.000 unità a quota 244.000, il dato è peggiore delle attese degli analisti che scommettevano su quota 240.000. Altice, la holding controllata dal miliardario franco-israeliano Patrick Drahi, sta valutando un'offerta da 185 miliardi di dollari per rilevare Charter, secondo operatore via cavo americano, con 26 milioni di abbonati, stando a quanto pubblica il Financial Times. L'interesse di Altice, cresciuta rapidamente grazie ad acquisizioni in Francia, Portogallo e Stati Uniti, sarebbe l'ultima di una serie di mosse di consolidamento nel settore dei provider di telecom, media e servizi via cavo. Tuttavia si evidenzia per il momento che Altice non ha fatto alcun approccio e potrebbe non farlo, secondo molte voci, vicino al gruppo basato in Lussemburgo e quotato in Olanda. Tra le complicazioni segnalate è quella di raggranellare il grosso ammontare per finanziare il debito, oltre al fatto che Charter non ha espresso interesse per accordi. Inoltre, nella battaglia per Charter, Drahi si troverebbe contro la SoftBank Masayoshi Son, di cui John Malone, il miliardario soprannominato il cowboy del cavo, possiede il 21%. Trasporti: nel primo semestre il traffico passeggeri negli aeroporti europei registra una crescita media del 9%, è quanto emerge dal consueto report di ACI Europe, che monitora tutti i tipi di voli civili, full service dunque, low cost e charter. Nello specifico, sia i mercati europei che quelli non europei registrano simili livelli di crescita, rispettivamente del più 8,7% e più 9,9%. Per gli aeroporti europei si tratta di gran lunga della migliore performance di traffico nella prima metà dell'anno da oltre 10 anni, sottolinea il direttore generale di ACI Europe Oliver Jankovec. Questo si aggiunge ad una crescita significativa, con volumi di crescita dei passeggeri saliti del 30% dal 2012. La previsione è molto positiva per il resto dell'anno, con l'economia, specialmente nell'eurozona, che dovrebbe mantenere la sua traiettoria di crescita e i prezzi del greggio rimanere contenuti. Ora l'Italia nello specifico: a giugno 2017 le esportazioni diminuiscono dell'1% rispetto a maggio, con cali per tutti i raggruppamenti di industrie a eccezione dell'energia, più 3,5%, ma aumentano dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Quindi meno 1% rispetto a maggio, più 8,2% in un anno. Lo comunica l'Istat. Nel secondo trimestre l'export risulta in aumento dello 0,6% grazie alla spinta dell'area europea, mentre l'area extraeuropea vede una diminuzione dell'1,4%. Per le importazioni invece a giugno c'è un calo del 2,9% sul mese e un aumento del 9,9% sull'anno, mentre sul trimestre un incremento dello 0,9%. Vediamo tutti questi numeri poi materialmente in cosa si traducono. Nei primi 6 mesi dell'anno l'avanzo della bilancia commerciale dell'Italia raggiunge 19,1 miliardi e tocca 36 miliardi al netto dei prodotti energetici, secondo i dati dell'Istat. Nel semestre appaiono in crescita sostenuta sia l'export, l'abbiamo detto più 8%, sia l'import più 11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il lavoro, tema sempre molto caldo E caro a Focus Economia, le imprese tornano a cercare personale con la quota di posti di lavoro vacanti, per cui le aziende sono a caccia di candidati, che tocca lo 0,9% nel secondo trimestre, il massimo da quando è iniziata la serie, ovvero dal 2010. E quanto emerge dalla stima preliminare dell'Istat, che rispetto ai primi tre mesi dell'anno segna un incremento di 0,1 punti. La platea di riferimento comprende i settori delle industrie e dei servizi con almeno 10 dipendenti. Andiamo nel dettaglio, sempre con le spiegazioni dell'Istat. Il tasso cresce di 0,1 punti percentuali nei servizi, raggiungendo l'1%, mentre rimane stabile allo 0,7% nell'industria. Si tratta di un indice cosiddetto spia, che dà il senso di dove si sta andando, e se le imprese sono interessate a nuovo personale significa che l'economia tira, anche se in alcuni casi un valore alto può indicare lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro. Le imprese cercano personale che non trovano sul mercato del lavoro perché magari le competenze richieste sono differenti da quelle disponibili. Però in linea di massima, sempre leggendo i dati Istat e la spiegazione fornita dall'Istituto di Statistica, quando il tasso dei posti vacanti si alza vuol dire che si sta innescando una ripresa e viceversa. Non a caso il minimo storico è stato toccato nei periodi più bui per il mercato del lavoro. I posti vacanti misurano le ricerche di personale che alla data di riferimento sono già iniziate e non ancora concluse. E anche di questo, anche questa notizia sarà parte del nostro primo approfondimento tra breve. Cercheremo di capire lo stato di salute dell'economia italiana. Andiamo rapidamente a chiudere le notizie in breve. Parliamo di Zalando, lo conosciamo un po' tutti, è un commerce online, un riferimento importante. Zalando creerà un migliaio di posti di lavoro nel nord Italia con l'apertura di un nuovo centro di distribuzione che servirà anche agli altri mercati europei, con un focus sul sud Europa. La locazione sarà sicuramente nel nord Italia, avrà una dimensione più o meno di 130.000 metri quadri, e dal momento in cui il magazzino diventerà operativo contiamo di assumere intorno ai 1.000 dipendenti nel medio periodo. E quanto ha spiegato Matteo Bovio, Corporate Communication di Zalando. Il referendum ATAC dei radicali, anche questo tema di un nostro approfondimento, obiettivo centrato per la campagna referendaria Mobilitiamo Roma, promosso da Radicali Italiani e Radicali Roma, per la messa a gara del trasporto pubblico della capitale. Con più di 33.000 firme raccolte, i radicali hanno infatti raggiunto e superato il traguardo delle circa 29.000 firme necessarie a indire il referendum consultivo il prossimo anno. La consegna delle firme in Campidoglio è prevista per domani e i radicali saranno davanti al Campidoglio in tarda mattinata, e prima del deposito presso gli uffici del segretariato generale, il segretario dei Radicali Italiani Riccardo Magi, che sarà nostro ospite, e terrà una breve conferenza stampa. E poi una notizia che abbiamo ascoltato anche nel GR pochi minuti fa: l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha provveduto al ripristino delle licenze di esercizio di trasporto aereo delle compagnie Alitalia SAI e Alitalia City Liner in amministrazione straordinaria e alla contestuale revoca delle licenze provvisorie a seguito delle misure assunte dai commissari straordinari. Lo si legge in una nota dell'ENAC in cui si precisa che i commissari si sono impegnati a garantire la regolare prosecuzione dell'attività in linea con le finalità dell'amministrazione straordinaria. E con questa notizia chiudiamo le notizie in breve, passiamo al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento importante, perché dedicato all'economia italiana. A 360 gradi, il prossimo 16 agosto verranno diffusi i dati sul PIL del secondo trimestre 2017. Le previsioni sono di una crescita dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, ma diversi osservatori scommettono su un risultato leggermente migliore. Ieri i dati sulla produzione industriale hanno confermato un rafforzamento della fase di ripresa. Cerchiamo allora di capire se le previsioni potranno essere rispettate? Lo chiediamo e innanzitutto lo ringraziamo per la sua partecipazione a Focus Economia, Lorenzo Forni, segretario generale di Prometeia, l'associazione Prometeia. Buon pomeriggio Forni. Buon pomeriggio. Forni, allora, innanzitutto, secondo lei, le previsioni per il secondo trimestre potrebbero essere rispettate, visti un po' i dati di questi giorni che vanno ad anticipare alcuni settori? Ma sicuramente sì, forse riviste un filo al rialzo. Il dato di ieri sulla produzione industriale è positivo soprattutto, a mio avviso, perché indica due aspetti importanti. Uno è che la ripresa dei settori industriali è diffusa a quasi tutti i settori industriali, cioè ormai sono pochi quelli che non hanno un segno positivo, e questo è molto positivo. Il secondo aspetto, perché tirano veramente i settori che noi conosciamo essere di punta dell'industria italiana, che sono in questa fase il farmaceutico e la meccanica. Quindi ecco, due settori che tirano l'insieme dell'economia italiana, la farmaceutica e la meccanica. Nell'ambito della meccanica, allargato alla meccanica, sta andando molto bene il settore auto. Ricordiamolo, quindi, la produzione industriale, i dati di ieri, accelera e cresce dell'1,1% sia nella media del secondo trimestre rispetto al trimestre precedente, sia a giugno rispetto a maggio. Oggi si aggiungono i dati sull'export, non è tanto interessante il congiunturale quanto il tendenziale. In un anno vi è stato un balzo in avanti, anche questo è un elemento importante secondo lei? Sì, l'export sta andando bene, anche se devo dire nel primo trimestre, nei dati del primo trimestre non è stato uno, diciamo, le esportazioni nette, quindi al netto delle importazioni non è stato uno dei driver principali della crescita. Sono stati altri driver principali della crescita nel primo trimestre, però in generale le esportazioni stanno andando bene. Il dato ultimo di giugno sostanzialmente sottolinea questo aspetto, che le esportazioni vanno bene, anche le importazioni sono cresciute molto, ma questo è semplicemente un segno del fatto che anche i consumi interni tengono e crescono, quindi le esportazioni nette di per sé non sono un segnale diciamo chiarissimo sull'andamento dell'economia. Bisogna guardare sia le esportazioni che le importazioni. Ecco, diceva giustamente, le esportazioni, siamo tutti contenti, vanno bene, ed è invece fondamentale l'indicatore dei consumi interni, che sembrano reggere, si spenderebbe di più, si consumerebbe di più, e quindi questa è un'ottima notizia. Secondo lei, questo secondo trimestre, abbiamo detto, produzione industriale positiva, soprattutto che coinvolge tutti i settori, è un'onda lunga che ci stiamo portando, immagino io, anche dallo scorso anno, ma vi sono degli elementi che secondo lei hanno pesato e stanno pesando di più in questa ripresa, seppure ancora dello zero virgola per il nostro paese? Beh, la ripresa italiana ha assistito ovviamente in un contesto internazionale di ripresa, è andato meglio delle attese del commercio internazionale nella prima fase dell'anno, e quindi alcuni mercati emergenti, la Cina sta andando meglio delle previsioni, insomma, quindi in verità è un contesto internazionale dove ogni pezzo del puzzle sembra stare al suo posto, insomma, e quindi questo è molto positivo. Poi ci sono anche ragioni ovviamente legate alle politiche. La politica monetaria è stata molto espansiva, lo è tuttora, quella della Banca Centrale Europea, e ci sono anche ragioni interne che riguardano anche le politiche fatte negli ultimi anni, perché alcune di queste politiche hanno sicuramente contribuito a rafforzare la crescita, in particolare alcune politiche di bilancio. Ecco Forni, siamo ancora lontani evidentemente dai livelli pre-crisi, ce lo dicono diverse indagini. Leggo alcuni dati di Mediobanca: il fatturato dell'industria italiana è ancora sotto ai livelli pre-crisi, è quanto emerge dalla ricerca sui dati cumulativi delle imprese italiane presentata oggi dall'area studi di Mediobanca, che indica come rispetto al 2008 il fatturato 2016 delle 2065 imprese imprese considerate è stato ancora sotto del 6,4%, soprattutto per le imprese pubbliche, anche se terziario e manifattura fanno meglio, sono in segno positivo, grazie anche all'apporto delle medie imprese. Quanto alle grandi aziende manifatturiere, il fatturato è salito dell'11,4% dal 2008. Insomma, dati contrastanti a seconda dei vari settori, siamo ancora sotto i livelli pre-crisi e ci staremo ancora per quanto, secondo lei? Ma allora, gli investimenti e comunque gli investimenti industriali sono ancora abbastanza sotto il livello pre-crisi e ci vorrà del tempo perché ritornino. Altri indicatori, anche la disoccupazione è ancora alta e ci vorrà qualche anno. È chiaro, dipende molto se continueremo a crescere anche al tasso attuale, che sia l'1,2, l'1,3, per qualche anno, o invece ci sarà un'altra recessione, perché teniamo conto che ad esempio gli Stati Uniti dal 2008 non hanno ancora avuto una recessione, quindi è un ciclo molto lungo e alcuni commentatori iniziano a pensare che prima o poi nei prossimi anni qualche recessione ci possa essere. Quindi in quel caso, certo, l'obiettivo verrebbe rallentato ulteriormente. Dipende un po' che scenario uno diciamo pensa. È chiaro che se assumiamo che non ci siano particolari shock negativi, ci vorranno ancora alcuni anni per tornare ai livelli pre-crisi, però ci dovremo tornare. Ci dovremo tornare, dice lei, sempre che non ci siano ulteriori shock, eppure la politica internazionale ce ne propone potenziali ogni giorno, le tensioni geopolitiche dell'Estremo Oriente, poi le annose questioni in Sud America. Insomma, sono tutti elementi che potrebbero influire sulla ripresa dell'economia. Per quanto riguarda strettamente l'Europa, si entra in un anno di fatto, anzi nei prossimi mesi, anche di elezioni politiche, pensiamo solo alla Germania e poi anche per il nostro paese. Immagino che queste sessioni potranno avere i loro effetti sull'economia europea, soprattutto le elezioni forse in Germania. Sì, in realtà sembra che almeno sulla base dei polls attuali, che in Germania diciamo la coalizione attuale, o comunque il cancelliere, rimarrà invariato. Chiaro, io non faccio previsioni, diciamo, sulla politica tedesca, ma certo, tutti sembrano concordare su questo. Non è irrilevante quale sarà la coalizione con la quale, diciamo, la Merkel, eventualmente, se vincesse, formerebbe un governo, e questo può essere rilevante per alcune scelte europee. Evidentemente per noi è molto più importante l'elezione italiana, però se ci arriveremo con la legge di bilancio approvata, a mio avviso i rischi dovrebbero essere limitati. Ecco, una legge di bilancio che sarà fatta in autunno, nei prossimi mesi, logicamente immagino che al Ministero del Tesoro se ne stiano occupando pesantemente anche in queste settimane. Tra le priorità per Palazzo Chigi resta l'occupazione per i giovani, secondo lei? Ma sicuramente resta l'occupazione per i giovani, le misure contro la povertà, però obiettivamente c'è bisogno di un cambio di passo, nel senso che la ripresa adesso si è avviata, la politica fiscale deve spostare la priorità dal sostegno alla crescita al controllo del debito. A questo punto, con i tassi bassi e la crescita in fondo, che per gli standard italiani è abbastanza elevata, i mercati si aspettano che il governo sia in grado di ridurre il debito. Se non riesce a farlo in queste condizioni, ci si chiederà quando mai potrebbe riuscire a farlo. Quindi, ma comunque, diciamo, il ministro Padoan e comunque in generale il MEF hanno già interagito con la Commissione europea, come lei sa. C'è un accordo parziale per un aggiustamento, quindi una contrazione fiscale dello 0,3% per il 2018, che noi tra le altre riteniamo sia appropriata, nel senso che è in grado di non incidere negativamente sulla crescita, perché è moderata, ma allo stesso tempo è in grado di mettere il debito su un sentiero decrescente, che è quello in un certo senso che in questo momento è importante. Poi all'interno di questo quadro, diciamo, macroeconomico, le priorità ovviamente rimangono l'occupazione, i giovani, la povertà, questa è la discussione. E indubbiamente se la diminuzione del debito resta un faro per il governo, immagino che qualsiasi intervento, magari auspicato anche dalle forze politiche, e le sentiremo in campagna elettorale, di taglio della tassazione, sia abbastanza in contrasto con il controllo del debito. Su questo siamo tutti d'accordo. Credo che non ci siano margini di intervento sulla tassazione. Ma guardi, questo è un discorso molto complesso nel quale entrare così battute è difficile. Io quello che posso dire è che in verità il governo negli ultimi anni, e qui se posso fare un pochino di pubblicità, certo, come Prometea abbiamo fatto quella che chiamiamo Prometea Position Note a luglio, è pubblica sul sito di Prometea e si intitola in inglese Which Fiscal Policy Will Italy Follow Next? E che fa una disamina anche della politica fiscale degli ultimi anni, quindi di questa legislatura. E in un certo senso si vede che in questa legislatura uno degli obiettivi era quello di ridurre la pressione fiscale e allo stesso tempo di ridurre le spese. Quindi uno è in grado, insomma, se uno riduce le spese può permettersi anche una riduzione della pressione fiscale senza incidere negativamente sul debito. Questo è stato fatto negli ultimi 3 anni con una strategia diciamo coerente da questo punto di vista, quindi non è impossibile ridurre la pressione fiscale. Ovviamente bisogna capire che margini ci sono per un controllo, una razionalizzazione di alcune spese. Questo è un tema, come sappiamo, molto, molto complesso, sul quale comunque bisogna muoversi anche con grande cautela. Non si può pensare di risparmiare molto in tempi limitati. Alcune cose probabilmente vanno ripensate anche nella fornitura dei servizi pubblici, quindi diciamo il cammino si può fare, però è un cammino che va, diciamo, percorso con calma. Certo, e soprattutto un argomento che lei dice va affrontato con cautela, soprattutto perché poi quanto viene dichiarato in Italia da leader importanti politici viene poi ascoltato anche dai mercati, dalle istituzioni europee, e si rischia di dare indicazioni contraddittorie. Ma questo immagino succeda un po' dappertutto. Io credo che, anzi sono sicuro, c'è molta fiducia nel governo italiano. È chiaro che poi le forze politiche fanno degli annunci anche a livello, diciamo, per ragioni elettorali, e questo viene scontato dai mercati. I mercati sanno che c'è una propaganda elettorale e sanno che ogni tanto questa propaganda elettorale è abbastanza, come si può dire, colorita. Sono in grado di capirlo, quindi non credo che siano le uscite estemporanee, certo, che preoccupino i mercati. Sono altre cose, insomma, che per il momento che possono essere più interessanti per i mercati finanziari. Benissimo, allora noi aspettiamo il 16 agosto, quando verranno diffusi i dati sul PIL del secondo trimestre, vedremo l'ulteriore tendenza della nostra economia. Allora, per il momento io ringrazio per il suo contributo Lorenzo Forni, segretario generale dell'associazione Prometeia, e noi ci prendiamo una pausa. CrefoZert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi presenta Focus Economia. .17:36 di nuovo insieme, Focus Economia. Leggiamo insieme una notizia che farà piacere a chi viaggia molto in treno, soprattutto per i pendolari. Il ministro delle infrastrutture Delrio ha firmato oggi il decreto di riparto ed erogazione di risorse sul rinnovo del materiale rotabile ferroviario per servizi di trasporto regionale. Si tratta di 640 milioni di euro complessivi per il quadriennio 2019-2022, che si vanno ad aggiungere ad altri 426 milioni di euro di cofinanziamento regionale, per un totale di 1 miliardo e 66 milioni di risorse in campo da oggi. Queste le nuove risorse per il rinnovo nuovo dei treni regionali. Apriamo decisamente lo spazio dei mercati. Ringraziamo per il contributo il collega di Radio Cori, il Sole 24 Ore, Andrea Fontana. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a te, Vincenzo. Andrea, allora, l'abbiamo detto nel nostro sommario di inizio trasmissione, oggi vedo tutti i segni negativi, Asia, Stati Uniti ed Europa. Sì, seconda frenata consecutiva per le borse, sicuramente in parte sull'effetto ancora delle tensioni internazionali tra Corea del Nord e Stati Uniti, che già avevano contribuito alla flessione di ieri, e in parte anche legata all'attesa di un dato importante, che sarà quello di domani sull'inflazione degli Stati Uniti, dato importante in chiave movimenti della Banca Centrale statunitense nella seconda parte dell'anno, visto che già con i dati americani attuali si nutrono più di un dubbio sulla possibilità che la banca centrale possa ulteriormente alzare il costo del denaro e quindi possa passare probabilmente alla primavera del 2018. Sarà quindi un dato importante. Nell'attesa le borse hanno accentuato queste vendite che si mostrano negli Stati Uniti con un calo del Dow Jones attualmente intorno a mezzo punto percentuale, e in Europa con vendite abbastanza generalizzate ai vari settori, banche, assicurazioni, materie prime e telecomunicazioni. Tra l'altro, Andrea, sempre dal fronte Stati Uniti, hanno deluso soprattutto, se non sbaglio, i dati oggi relativi al mondo del lavoro. Sì, sicuramente la richiesta di sussidi di disoccupazione è stata superiore a quella che ci si aspettava, e chiaramente quindi va un dato che accende un attimino qualche dubbio rispetto a quello che erano stati i dati sul mercato del lavoro, che alla fine della scorsa settimana avevano fatto certo ben reagire i mercati, mentre appunto i dati diffusi oggi pongono un pochettino un po' più di dubbio su questo fronte, oltre a quelli sui prezzi alla produzione che hanno avuto appunto un effetto di mettere in dubbio invece la strategia della Banca Centrale nella seconda parte del mese. Certamente. Concentriamoci su Milano, leggo FTSE MIB meno 0,76% e in cima ai migliori Campari. Sì, per quanto riguarda Campari si tratta di un rimbalzo, visto che viene da alcune sedute di agosto piuttosto deboli, piuttosto deludenti, una performance della prima parte di agosto della semestrale derivata dal fatto che pur con conti positivi molti analisti hanno visto questo titolo come già correttamente apprezzato, quindi hanno preferito alleggerire la posizione, ma anche una performance che era stata penalizzata dal forte indebolimento del dollaro, moneta verso il quale Campari è molto esposta, essendo molto attiva negli Stati Uniti con i propri ricavi, e il recupero progressivo del dollaro sotto 1,18 per un euro ha permesso a Campari un po' di recuperare terreno. Tra i peggiori leggo tutti i titoli bancari, Andrea. Sì, un andamento simile a quello di ieri per il comparto bancario, per gli assicurativi, in parte è sicuramente figlio di di recenti performance positive che erano seguite anche all'andamento delle trimestrali, in parte chiaramente resta il tema dei tassi di interesse. Certo. E anche le scelte degli investitori che si sono spostati nuovamente sui titoli di Stato, sui titoli governativi. Abbiamo visto ancora oggi sia il Bund, sia quindi il decennale tedesco, sia il decennale americano oggetto di acquisti, e quindi che hanno con i rendimenti in discesa, per il decennale tedesco intorno all'area 0,42%, per quello americano intorno al 2,22%. Quindi normalmente questi movimenti portano a un movimento contrario sul settore bancario, e le ex popolari come la B per la UBI Banca, ma anche Unicredit, hanno pagato dazio perdendo oltre il 2% nell'assoluto odierno. Di fatto, Andrea, di fronte a tensioni anche internazionali, si tende ad abbandonare i settori bancari per andare in porti un po' più sicuri. Citavi i titoli americani, tedeschi, ma anche vedo che ne hanno beneficiato i petroliferi. Sì, ne hanno beneficiato i petroliferi, anche perché per gran parte della seduta il prezzo del petrolio è stato in rialzo sulla scia dei dati delle scorte americane di petrolio che erano state diffuse ieri pomeriggio, che avevano visto un significativo calo delle scorte nella settimana passata. Nell'ultima parte della seduta di oggi però il petrolio ha un po' corretto questa tendenza, tant'è che il Brent sta perdendo dello 0,5% ed è tornato sostanzialmente intorno a $52,5 al barile, mentre a New York la flessione è più significativa, cioè una flessione di quasi l'1% per il petrolio WTI che è tornato intorno ai $49,3, ma i titoli del settore petrolifero hanno comunque tenuto, in particolare Tenaris a Milano ha guadagnato lo 0,7%, l'Eni ha passato l'intera seduta sostanzialmente in positivo, ha chiuso praticamente piatta, quindi i movimenti del petrolio hanno contribuito, certo, in parte a limitare quello che poteva essere il passivo, diciamo così, per alcuni listini. Ecco, abbiamo parlato quindi di Campari sotto Tenaris, la citavi pochi istanti fa, poi leggo vicino a Tenaris, quindi sempre in campo molto positivo, Atlantia, bene Atlantia e Autostrade Torino-Milano, sale anche l'aeroporto Venezia. Sì, una certa attenzione oggi per i settori infrastrutturali, quindi autostrade, aeroporti nello specifico. Per quanto riguarda Atlantia non ci sono notizie specifiche, ma il titolo, come tu dicevi, è stato tra i migliori, tra i pochi a gara del FTSE MIB. Per quanto riguarda invece autostrade Torino-Milano, che ha guadagnato l'1,34%, e la SIAS, che è l'altra società autostradale del gruppo Gavio, che in cui rientrano l'autostrada dei Fiori, le tangenziali di Torino e altre autostrade e linee di collegamento dell'Italia nord-occidentale, la SIAS ha guadagnato il 5%, questo perché entrambi le società ieri che fanno parte del gruppo Gavio hanno diffuso una semestrale giudicata molto positiva, anche sia a livello di conto economico, quindi di crescita degli utili, ma anche a livello di traffico autostradale, che è cresciuto del 3,5% nei primi sei mesi dell'anno. Per quanto riguarda invece Save, che tu citavi, cioè la società di gestione dell'aeroporto di Venezia, il titolo ha guadagnato lo 0,6% perché ormai è stata formalizzata l'operazione che ha portato a un riassetto sul 60% del capitale, riassetto al quale seguirà da parte dei nuovi azionisti partecipano anche dei fondi infrastrutturali, il lancio di una offerta pubblica d'acquisto sul mercato a €21. E oggi il titolo ha guadagnato un altro 0,6%, chiudendo sopra questa soglia. Vedremo se nelle prossime settimane, quando veramente ci si avvicinerà il momento dell'offerta sul mercato, se il titolo continuerà a tenersi sopra la soglia dei €21, quindi mostrando che il mercato sta un po' cercando di scommettere su un potenziale rialzo dell'offerta da parte degli azionisti, o se invece si adeguerà al prezzo dell'offerta, quindi adagiandosi sulla quota del prezzo di offerta, cioè su €21. Andrea, una mia curiosità personale che mi porto da ieri, ti chiedo una risposta brevissima, mi ha incuriosito, ieri vi sarebbe stato sui mercati finanziari un effetto Neymar, conosciamo tutti il calciatore passato dal Barcellona al PSG, e ne avrebbero beneficiato tutti i titoli delle squadre quotate. È una notizia che risponde a realtà questa? Una risposta brevissima, grazie. Ma l'indice delle quotate del calcio sì, ha guadagnato effettivamente da quando si è concretizzata l'operazione Neymar circa il 5%. Ne hanno beneficiato di più Juventus e Borussia Dortmund, che due tra le principali quotate, perché si scommette sul fatto che i soldi raccolti dal Barcellona con l'operazione Neymar possono essere investiti in calciatori o della Juve o del Borussia Dortmund. Tra l'altro oggi notizia forse più di calcio che di finanza, sembra che uno di questi calciatori nel mirino del Barcellona, questo Dembélé, possa effettivamente essere in trattative con il Barcellona per passare a questa squadra. Questo porterebbe a un incasso molto importante per il Borussia Dortmund, qualcuno azzarda intorno ai 100 milioni di euro, e quindi anche se oggi effettivamente il titolo di Borussia Dortmund ha poi guadagnato lo 0,6%, ma sull'indice sicuramente negli ultimi giorni si è visto questo effetto. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo per l'estate. Focus Economia. Sette e 48, di nuovo insieme per l'ultima parte di Focus Economia. Parliamo di ATAC, dell'azienda di trasporto pubblica del comune di Roma. Ricordiamo che nel 2019 scadrà l'affidamento diretto da parte del comune all'ATAC, quindi la convenzione diretta, e a quel punto potrebbe succedere qualcosa in funzione delle oltre 30.000 firme raccolte dai radicali italiani perché vi sia una consultazione per una privatizzazione della stessa azienda di trasporto pubblico. Parliamo di questo argomento con Riccardo Maggi, segretario dei radicali italiani, che saluto e ringrazio. Grazie, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Buon pomeriggio. E con il professor Andrea Boitani, economista dell'Università Cattolica di Milano. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a tutti. Parto proprio da lei, professore. Una privatizzazione di un'azienda di trasporto pubblico come l'ATAC, ma immagino anche di una di qualsiasi altra grande città italiana, è tecnicamente fattibile? Ma guardi, il problema non è la privatizzazione in quanto tale. Dalla privatizzazione possono nascere dei mostri. Il problema è quello di introdurre un sistema di affidamento competitivo dei servizi. Da questo punto di vista la normativa esistente, approvata già nel 2017 e già convertita in legge, il decreto legge 50, prevede che alle amministrazioni che non fanno le gare, cioè che non affidano i servizi tramite gara, vengano sottratte annualmente delle risorse e che queste risorse vengano trasferite alle regioni e conseguentemente dalle regioni ai comuni che invece le gare le fanno. Quindi il problema è quello, riuscire a portare il sistema romano, ma come quello di altre grandi città, ma non solo delle grandi città naturalmente, verso la competizione per l'affidamento dei servizi. Perfetto. Poi c'è il problema di farle bene le gare, ma su quale magari torniamo dopo. Sì, sì, assolutamente. Riccardo Maggi, segretario dei Radicali Italiani, andiamo con ordine. Innanzitutto siete soddisfatti, immagino, per una raccolta di firme che non sono poche, però ricordiamo che qualora si dovesse fare il referendum sarebbe consultivo. Quindi qual è il vostro obiettivo? Ma l'obiettivo è proprio quello che sottolineava ora il professore. Qui non si tratta di una privatizzazione, nessun privato se non un folle potrebbe pensare di entrare con i propri capitali in ATAC, che è un'azienda fallita. Il direttore generale, che si è dimesso poche settimane fa, l'ha chiamata tecnicamente con il proprio nome un'azienda insolvente, ha 1.350 milioni di euro di debiti, non ha mai rispettato negli ultimi anni il contratto di servizio. Quello che noi chiediamo, quello che ora i cittadini chiedono, avendo attivato lo strumento referendario e avendo raggiunto l'obiettivo delle firme dell'1% della popolazione, è esattamente la messa a gara del servizio, preferibilmente affidandolo a una pluralità di soggetti, quindi con una suddivisione in lotti di tutto quanto il servizio. Questo proprio per garantire che non avvenga più quello che è avvenuto finora. Noi abbiamo avuto un rapporto perverso tra l'amministrazione comunale e la propria azienda. ATAC è una SPA con un unico azionista che è controllata al 100% dal Comune di Roma. Il Comune di Roma avrebbe dovuto applicare delle penali, delle sanzioni perché per il mancato rispetto del contratto di servizio, ma nello stesso tempo le avrebbe applicate a se stessa e ogni anno deve ricapitalizzare l'azienda per decine di milioni di euro. Questa è, diciamo, il rapporto malato che va rotto secondo noi, e lo si fa attraverso una gara. L'attuale amministrazione ha già annunciato invece di voler procedere in maniera, a nostro avviso, assolutamente folle a un nuovo affidamento in house. Ecco, ma professor Boitani, lei diceva le privatizzazioni in alcuni casi, immagino lei si riferisca anche a quello che ci insegna la storia, almeno per le privatizzazioni italiane, possono generare dei mostri. In questo caso queste gare di cui stiamo parlando, fatte bene, come potrebbero però contrastare la presenza di un'azienda che è un molosso con tantissimi dipendenti ed esposta finanziariamente come è l'ATAC? Ma guardi, il problema è che le gare sono gare per il servizio, non per l'acquisto dell'azienda. Perfetto. È chiaro che il problema dell'azienda e soprattutto dei debiti, cui faceva riferimento Maggi prima, è un problema serissimo, nel senso che quei debiti non è che vengono cancellati, qualcuno dovrà farsene carico, questo è fuori discussione. Dubito che possa essere oggi o in futuro l'amministrazione capitolina, però intanto procedere all'affidamento dei servizi attraverso gare può comportare una forte riduzione dei costi di gestione a parità di qualità del servizio erogato, o anche magari con qualche miglioramento del servizio erogato, che a Roma non farebbe male, devo dire. E questo consentirebbe di evitare la formazione di ulteriori debiti in futuro, cioè consentirebbe di creare una situazione per quanto riguarda il sistema, non per quanto riguarda il sistema del trasporto pubblico romano, che è ciò che interessa ai cittadini dopo tutto. Dovrebbe essere caduto il professor Boitani. Riccardo Maggi, sei ancora con noi? Sì, ci sono. Sì. Riccardo, allora continuiamo in questo filone sul quale stavamo parlando con il professor Boitani. Il discorso, il punto è questo: allora, da una parte rimarrebbe il molosso dell'ATAC, dall'altra andiamo a gara per i singoli servizi. Per capire, io per primo, facciamo la gara allora per gli autobus, immagino, per il servizio autobus. Chi è quel folle che prende un servizio del genere avendo l'obbligo, poi immagino, di utilizzare il personale e tutta la struttura, la vecchia struttura? Non so se sto dicendo una cosa sbagliata. No, è chiaro che siamo di fronte a problemi molto grossi, che sono il portato di almeno 10, 15, se non 20 anni di malgoverno dei servizi pubblici nella capitale, ma non solo. Noi abbiamo scelto ATAC perché è un caso emblematico, certo, di che cosa possono diventare le municipalizzate, sia in termini di servizi pessimi che di dissesto finanziario che portano. La cosa è precipitata, ATAC ora sta in una situazione molto grave, cioè resta una unica via per evitare il fallimento vero e proprio, e quindi libri in tribunale, che è quella del concordato preventivo in continuità aziendale. Questo è un tentativo che probabilmente già si sarebbe dovuto avviare già da qualche tempo, già da qualche mese. In ogni caso, se si andasse, come noi auspichiamo, verso una gara, si dovrebbe prima passare attraverso uno scorporo all'interno dell'azienda, della parte che fa la programmazione strategica, diciamo così, del servizio, certo, che dovrebbe restare pubblica, perché noi crediamo che questo debba essere il ruolo pubblico che va esaltato, cioè la programmazione del servizio e il controllo su chi gestisce, e l'altra parte, quello che c'è di salvabile in ATAC, deve rientrare nella gara che viene fatta. Quindi è chiaro che si deve passare attraverso una fase in cui si fa una ricognizione della massa attiva, della massa passiva, e poi nelle clausole all'interno della gara chi vince deve prendere, perfetto, anche, certo, quel personale che può essere riutilizzato. Per gli altri ci sarà tutte le clausole sociali del caso. Invece, in caso di un fallimento verso cui si sta andando incontro, allora sì, ci sarebbero anche maggiori rischi occupazionali con gli esuberi, cassa integrazioni, certo, eccetera. Grazie, io ringrazio Riccardo Maggi, recupero il professor Boitani, la porto velocemente su un altro argomento. Ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione. Professore, abbiamo avuto dati recenti soddisfacenti della produzione industriale e anche dell'export. La prossima settimana avremo il secondo trimestre del PIL. Brevemente, secondo lei le previsioni saranno rispettate per l'andamento per il nostro paese? Io credo che sia possibile pensare anche a un qualche ritocco verso l'alto delle previsioni. Questo non toglie che il paese si trovi ancora molto al di sotto del PIL e soprattutto del PIL pro capite pre-crisi, cioè ci troviamo ancora in una situazione che è diciamo, molto al di sotto del potenziale dell'Italia. Rispetto al pre-crisi. Quindi certamente, come dire, possiamo gioire del fatto che la situazione stia migliorando, insomma, che si stia uscendo dalla fase più acuta della seconda recessione, quella iniziata nel 2011 e finita soltanto nel 2014, certamente siamo ancora molto lontani dal pre-crisi. E la cosa che stupisce è che in genere nelle fasi di ripresa dalle recessioni l'economia cresce a tassi che sono più alti di quelli normali o medi, mentre oggi in Italia, non solo in Italia, l'economia dei paesi più sviluppati del mondo sta crescendo a tassi che sono più bassi di quelli medi del decennio precedente la crisi. La devo interrompere, che siamo in chiusura. Concetto chiarissimo, la ringrazio. Grazie professor Andrea Boitani, economista dell'Università Cattolica di Milano. Per oggi è tutto. Un ringraziamento allora a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Gianmarco Ferronato in regia. Di nuovo un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. Libera la voglia di fare.